Effetto Mondo. Indeed, the cover itself, the study in the room, in, he was in the room, isn't even completely true. The president and others, myself included, had to cut him out of meetings because he was leaking or he'd twist things or he'd lie. Ben ritrovata, Giulia. Ciao Alessio, buongiorno. Oggi allora, è il giorno dell'uscita del, del famosissimo, del libro, attesissimo libro di Bolton. Di John Bolton, e la voce che abbiamo sentito è di Mike Pompeo, il segretario di Stato, quindi un po' l'equivalente, diciamo, del ministro degli esteri per i paesi europei. Sì. Parlava a Fox News. Ricordiamolo, forse la maggior parte dei nostri ascoltatori lo sanno, negli Stati Uniti non esiste una TV pubblica, quindi ci sono solo dei network privati. E noi pensiamo forse spesso alla CNN, ma in realtà il network più visto è Fox News, che è molto vicino a Donald Trump da sempre. Qui parlava Mike Pompeo e diceva sostanzialmente che John Bolton è un bugiardo e che è una bugia fin dal titolo il suo libro, perché il titolo appunto The Room Where It All Happened, la stanza dove tutto accadde, dove si presume John Bolton fosse, cioè lo studio Ovale, in realtà Mike Pompeo dice spesso lo cacciavamo fuori perché lo abbiamo spesso colto mentre magari raccontava o metteva sui social cose che si erano dette in quella stanza e che naturalmente dovevano restare segrete. Quindi questa è un po' la difesa, cioè sono è partita tutte un bugie. Po' sì, l'operazione di screditamento di Bolton è un classico tra politici: uno si accusa con l'altro e l'altro dice che non sei credibile perché sei accusato sì, a sua volta. Per esempio, lo riportano oggi molto quotidiani, questa offensiva, diciamo, di Fox News nei suoi anchorman più famosi. Sì. E qui era John Hannity, che ha anche un programma alla radio molto seguito, e diceva a me John Bolton ha sempre detto cose diverse da quelle che scrive nel libro. Insomma, vedremo, perché la foto che c'era ieri su Financial Times di Trump che scende dall'Air Force One di ritorno dall'Oklahoma con il cappellino in mano, la cravatta slacciata, insomma, sicuramente sta cercando, questo racconta oggi il New York Times, il Wall Street Journal, di aprire un fronte che non sia quello della politica estera, che siccome John Bolton era uno dei suoi consiglieri appunto per la politica estera e per la sicurezza nazionale, di aprire un fronte diverso, forse per togliere un po' di attenzione da questo libro. E quindi New York Times, Washington Post, Wall Street Journal si concentrano su questo annuncio fatto ieri dalla Casa Bianca che riguarda questa estensione dello stop ai visti di lavoro. È proprio la spalla del Wall Street Journal, perché è una decisione che riguarda non l'immigrazione clandestina naturalmente, ma proprio la concessione di visti strettamente legati a lavori che uno può certificare negli Stati Uniti. Questo è un problema soprattutto per la Silicon Valley, ne parlano oggi tutti i quotidiani californiani, perché la Silicon Valley è per definizione un posto dove arrivano cervelli e menti da tutto il mondo, quindi ci saranno dei problemi. Chi ha già un permesso potrebbe non vederselo non rinnovato, chi magari pensava già di averlo perché con posto di lavoro garantito è la regola che tanti auspicano anche per altre riforme dell'immigrazione, no? Garanzia di un posto di lavoro, entra pure nel paese, questo non succederà. È naturalmente anche una mossa in vista delle elezioni, perché Trump la spiega, la Casa Bianca la spiega con: in questo modo noi tuteliamo il lavoro americano. E in realtà non è così semplice, insomma, questo travaso di posti di lavoro e competenze, però insomma vedremo se poi quanto questo ban, questo divieto dei visti verrà esteso. Giulia, ci racconti che cosa ha detto Angela Merkel a proposito dell'app tedesca? Lei è un politico naturalmente, ma ha una mentalità molto scientifica e sempre molto razionale. Mi interessa capire come ha parlato di questa app di tracciamento tedesca. Sì, tra l'altro per adesso sentiamo proprio le sue parole, ma un altro titolo sul Wall Street Journal è Tracing Apps Aren't Ready, cioè le app in America non sono pronte per questa fase di grande riapertura. A New York ieri hanno aperto i ristoranti, la maggior parte degli uffici, ma sentiamo giusto invece Angela Merkel. Heute können wir sagen, diese App verdient ihr Vertrauen. Sie sichert ihre Privatsphäre, indem sie die Daten, die sie erzeugt, konsequent verschlüsselt, pseudonymisiert, wie die Experten sagen. Ho capito solo app. Si dice questa app merita la vostra fiducia. È stata messa a punto insieme al Koch Institute e lei spiega, tra l'altro ricordiamolo, Angela Merkel è una scienziata di formazione e era già stata molto lodata per la semplicità e allo stesso tempo efficace in cui ha spiegato il famoso indice di contagio, e qui dice l'abbiamo testata perché fidatevi, perché è stata fatta in totale trasparenza per questa randomizzazione dei dati, che quindi garantisce che tutto quello che riguarda la vostra spesa, la vostra sfera personale, compresa la geolocalizzazione, viene praticamente frullata in modo che nessuno poi possa recuperare queste informazioni. Le uniche informazioni recuperabili sono quelle che interessano per capire appunto se siete entrati in contatto con qualcuno che ha il virus. L'appello reiterato a scaricarla, anche se ormai in Germania sono quasi 10 milioni le persone che l'hanno scaricata, è perché potrebbe, come dicevamo ieri, potrebbe essere utile in questo focolaio che c'è stato nel Nord Reno-Vestfalia, ma magari che anche futuri focolai. Devo dire che non è come se fosse apparsa la scritta no panic. I giornali tedeschi parlano forse meno di questo focolaio, invece si è aperta, come dicevi anche tu ieri, tutta una riflessione su come è organizzata la filiera della carne in Germania e su come vivono le persone che sono impiegate in questi giganteschi mattatoi o insomma comunque fabbriche di lavorazione delle carni, sia bovine che suine. Siccome hai ricordato che la Germania viaggia verso i 10 milioni di download della sua app, io ricordo solo che noi siamo quasi a quota 3, credo, 3 milioni di download per Immuni, giusto questo aggiornamento qua. Invece per quanto riguarda la Francia, mi segnali che sui giornali si parla molto della nuova riapertura delle scuole. Sì, la rentrée à petit la chiama Le Figaro, cioè il rientro dei piccoli, perché ormai praticamente tutte le scuole elementari sono aperte, ci sono tante foto molto belle, i bambini che diligentemente con i loro giganteschi zaini aspettano distanziati di poter entrare, è una foto a colori anche scelta da Financial Times e il titolo è le scuole riaprono mentre il Covid fa un po' di retreats, cioè fa marcia indietro. Direi che il tema in tutti i paesi, Australia compresa, Israele compreso, è appunto il tenere la guardia alzata e quindi l'importanza delle app, l'importanza dei tamponi, perché le seconde ondate, i focolai sembrano esserci praticamente in tutti i paesi dove si è entrati in una fase 2-3 a seconda di come viene chiamata. Attenzione altissima naturalmente appunto anche a New York, dove hanno riaperto gli uffici, ma anche qui tante bellissime foto delle persone che non possono più, okay, per esempio utilizzare le stazioni per il caffè, che sono molto diffuse nelle città, negli uffici americani. Classica, insomma, scena da film americano. Esatto. Grazie Giulia, è tutto per la puntata di oggi, con Peter Bescapè in regia, Claudia Schiattoni in assistenza, Jacopo De Franchi in redazione. Ciao, buona giornata da Alessio Maurizi, a domani.